ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Seconda puntata. Con lo zucchetto ricamato un po' sbilenco sulla testa, non capitava così spesso che l'indossasse, Pellegrino sedette a capotavola e fu il segnale. Il seder, il rito che segna l'apertura della Pasqua ebraica, stava per cominciare. Alfonsa indicò e prescrisse, e gli invitati presero posto, gli uomini con il libro in mano e la kippà in testa, le donne silenziose dopo brusii e cicalecci. Il posto d'onore rimase vuoto, a disposizione del profeta Elia, come vuole la tradizione, o per un qualunque viandante che si fosse trovato in quella sera a bussare alla loro porta. Bambini piccoli non ce n'erano, da molti anni dai Sereni non ne nascevano. Così toccò a Giacomino Pontecorvo, che pure aveva già una ventina d'anni, aspettare che il silenzio fosse completo per porre la domanda di rito. Svogliato, dondolandosi con scarsa serietà su una gamba, chiese: «Perché questa sera è diversa dalle altre sere?» Era il segno. Svagato, irriverente per lingua e tono, ma pur sempre il segno. Pellegrino, il più anziano, lesse e cantò. La sua voce, abituata a dare ordini agli operai, aveva ora altrettanto orgoglio e vigore. Le asperità della lingua ebraica le affrontava bravamente. Le travolgeva con qualche rudezza e approssimazione, come ogni ostacolo della sua vita. Fece comunque in modo di sbrigarsi. Malgrado la sua autorità indiscussa, l'uditorio era disattento, serpeggiavano sbuffi di impazienza e risolini di sopportazione. Le azime, le erbe amare, la stracciatella e i carciofi, il vino, il bollito con la salsa verde, i piatti erano quelli della tradizione. Benché sul modo di prepararli Dalinda in cucina avesse brontolato non poco, le usanze del ghetto e quelle della sua padrona non andavano molto d'accordo. Se si continua così, chissà mai cosa significherà più essere ebrei. Quando finimola servì le pizzarelle col miele, Alfonso finalmente si rilassò. Nessun cibo era comparso in tavola troppo bollente o troppo freddo, troppo salato o troppo sciapo. Ogni ordine era stato rispettato. Non c'erano stati incidenti di rilievo, benché un invisibile schizzo d'unto sulla pettorina di merletto avesse guastato per un momento l'umore di Giuditta. La compostezza un po' rigida dell'inizio del pasto si era sciolta in un abbandono caldo, torpido. Solo Ermelinda era ancora perfetta nell'abito, nell'acconciatura laboriosa, nel velo di cipria che le satinava le guance. Dal suo posto a capotavola Pellegrino la osservava con qualche stupore. Quella giovane donna, un po' borriosa e tutta presa di sé, quasi non gli sembrava figlia sua. Quando Ermelinda infilò una sigaretta in un lungo bocchino, chinandosi verso suo marito Angelo per farsela accendere, Pellegrino abbassò gli occhi per non turbare la festa con una sfuriata delle sue. Poi li rialzò su Alfonsa, sul suo ventre prominente ed il petto già pronto al latte. Il percorso fra le radici che aveva alle spalle e i rami che avrebbero proseguito la sua vita tornò ad apparirgli unitario. Gli uomini parlavano di affari e denari. Pellegrino entrò nei discorsi con tutta la foga delle sue convinzioni. Subito le voci ebbero un rialzo di tono, qualche nota acuta spiccò nel brusio compatto della conversazione. Turbato, Settimio si irrigidì. In piedi si aggiustò lo zucchetto sulla testa e cercava parole anche lui, prese a girare intorno al tavolo e non si fermava. Nel gelo del disagio e dell'apprensione tutti tacquero, in attesa, finché Settimio, come un oggetto perduto, sembrò ritrovare la memoria e la volontà. Guardò i fratelli, sorrise con tutta la bocca larga e sgraziata, poi levò un dito ammonitore e disse: «Sta per arrivare! Sta per arrivare!» Aveva un tono eccitato. Si fregò le mani, si lisciò i capelli come se stesse per entrare un ospite importante. E continuava a stropicciarsi le mani e l'agitazione gli cresceva dentro e girava senza fermarsi mai. Angelo lo raggiunse in fretta e gli andò vicino anche Samuele, che disse con voce calma: «Non arriva, Settimio, non arriva!» Settimio sembrava non sentisse. Allora Angelo lo ripeté più forte, con una punta di esasperazione nella voce: «Non arriverà! Non arriverà! Né adesso, né mai!» Pellegrino non capiva. Si chinò verso Giuditta e chiese sottovoce: «Ma chi? Chi è che deve arrivare?» Giuditta storse appena la bocca, chinò gli occhi. «Il Messia!» mormorò in un soffio. «Arriva! Arriva adesso!» insisteva Settimio battendo i piedi come un bambino. Angelo gli andò vicino, lo costrinse a guardarlo negli occhi, gli fece con la testa un no deciso, insistito. Settimio si bloccò, incupito. Guardò Samuele e anche lui ripeté il diniego. Lo sguardo di Settimio passava dall'uno all'altro e non si rassegnava. «Sicuro, sicuro?» chiese. «Non è venuto e non verrà», confermò Angelo scandendo bene le parole. Senza forze, confuso, Settimio scoppiò a piangere con la violenza terribile di un bambino imprigionato in un corpo adulto. Samuele gli asciugò gli occhi con il fazzoletto, lo accarezzò, cercò di consolarlo, ma Settimio non si calmava, disperato per quella salvezza dichiarata impossibile. Finché Pellegrino, dall'altro capo della tavola, non intervenne con altre parole, meno rigide. «Verrà, non verrà. Neanche i rabbini sanno dirlo con certezza. Comunque sia, dobbiamo andargli incontro, come se fossimo certi che arriverà domani, proprio domani». Settimio si aggrappò a quella possibilità. «Domani? A che ora?» chiese, perché i dubbi fossero cancellati. La preoccupazione di Pellegrino stava trasformandosi in irritazione. Voleva chiudere quella faccenda in un modo o nell'altro. «A che ora? Ma allora non si sa. Potrebbe essere in qualunque momento». Settimio lo guardava ancora non convinto. «Anche fra pochi minuti?» chiese. «Anche fra pochi minuti. Fai conto che debba arrivare, ecco, proprio così, a minuti». Settimio ritrovò un piccolo sorriso. Cercando di nuovo un suo spazio fra gli altri, si lasciò cadere sulla prima sedia alla sua portata. La sedia che era rimasta fino a quel momento vuota. Alfonsa si appoggiò le mani sul ventre, protettiva. Giuditta girò la faccia per non vedere. Finimola, che entrava con nuovi piatti, gli si avvicinò. «Signorino Settimio, stia buono», gli disse piano, e il vassoio le tremava fra le mani, impedite ad una carezza da tutti quegli sguardi puntati. Alfonsa prese da lei il piatto con il dolce, tagliò le porzioni e i commenti sulla sua bontà furono un primo ponte per tornare nei limiti, per tornare normali. Ma un ponte insicuro, Alfonsa lo sapeva e se ne sentiva responsabile. Così, con un tono improvvisamente querulo da bambina, chiese a suo padre di raccontare una storia. «Una storia di adesso», sperarono i più giovani. «Un madras», ribatté seccamente Pellegrino, che alle sue radici alla fin fine ci teneva, e in una sera come quella in maniera particolare. Del resto considerava tuttora la Torah come fonte di molte saggezze, seppure non certamente di tutte. «Speriamo almeno che non lo racconti in ebraico», mormorò udibilmente Ermelinda con una punta sussiegosa della voce. A sottolineare che lei la lingua la capiva, naturalmente, ma non ne trovava più la ragione. Pellegrino si schiarì la voce e annunciò il Midrash della perfezione. Tutti zittirono per rispetto. Lui poggiò le mani sulla tavola come per trarne forza e cominciò. Un rabbi decise un giorno di salire in terra d'Israele. Con il suo bagaglio, fatto di miseri beni e di grande sapienza, si imbarcò su di un battello dopo essersi informato bene sulla sua solidità e sull'affidabilità dell'equipaggio. Il primo giorno trascorse tranquillo e così anche il secondo, ma il terzo portò nuvole, vento e bufera. Il vento spazzò via alberi e vele. Il mare infuriato travolse remi e scialuppe. La bufera fece scempio dell'intero equipaggio. Così al nostro rabbino, naufrago fra le onde, non restò che affidarsi al santo, benedetto egli sia, perché lo traesse a salvamento, consentendogli così di adempiere alla mitzvah che si era prefisso, la salita a Gerusalemme che ogni ebreo degno di questo nome, se appena ciò gli è possibile, dovrebbe compiere una volta almeno nella vita. Lo sguardo di pellegrino dardeggiò sugli astanti, giovani e meno giovani che avevano viaggiato molto, Inghilterra, Austria, Prussia e Francia, ma in Palestina mai. Stringersi la mano per augurarsi Gerusalemme era per loro un rito come un altro, un'abitudine svuotata di significato e forse ormai soltanto imposta dalle convenienze. Una smorfia ironica di Ermelinda gli ricordò però che lui stesso nella Terra Santa mai aveva messo piede. Riprese a raccontare ma con tono più lieve. Dunque il rabbi si affidò all'Eterno e poi, non potendo più resistere alla furia degli elementi, abbandonò la trave cui si teneva aggrappato e perse i sensi. Ma il santo, benedetto egli sia, udì la sua preghiera e lo salvò. Così dopo qualche tempo il saggio si risvegliò su di una spiaggia. La testa gli doleva, le braccia gli dolevano, le gambe gli dolevano. Aveva perduto ogni suo bene terreno, era scalzo e lacero, ma vivo. Il rabbi ringraziò l'Eterno e in quel mentre apparve davanti a lui uno stuolo di ancelle. Lo fecero salire su di una lettiga e così, disteso, lo condussero in un palazzo meraviglioso. C'erano porte d'oro in quel palazzo e candelabri ingemmati e fontane gorgoglianti e musiche e profumi. Sembrava proprio il giardino dell'Eden. Le giovani, dopo averlo adagiato su di un letto di piume coperto di sete preziosissime, avevano preso a massaggiarlo, a medicargli le ferite, a cospargerlo di balsami e unguenti. In breve tempo ogni sofferenza lo abbandonò e il rabbi risplendette in tutta la sua saggia bellezza. Le ancelle si ritirarono, ma le musiche non cessarono, né smisero di bruciare negli incensieri i mille aromi che avvolgevano il palazzo in una nube fragrante e misteriosa. Ad un tratto la nube si ispessì, divenne più opaca. Ne emerse una donna bellissima, che si avvicinò al santuomo e lo strinse fra le sue braccia meravigliose. Qui Giuditta inarcò il sopracciglio, temendo una qualche sconvenienza. Pellegrino aveva le sue mattane, lei lo sapeva bene. Il rabbi la allontanò da sé un pochettino, poi la squadrò da capo a piedi. Davanti ai suoi occhi la donna cominciò a spogliarsi e nessun difetto offuscava la sua beltà. Nessuna cicatrice interrompeva la compattezza nivea della pelle. Il suo corpo era perfetto, dai capelli corvini giù fino alle unghie rosate dei piedi. Giuditta rabbrividì d'imbarazzo e sperò che il peggio fosse passato. Alfonsa ascoltava attentissima, beveva le parole come ne dipendesse la sua vita. Il rabbi la guardò, la toccò, la esaminò per benino. Poi, quando già una luce di vittoria le splendeva negli occhi, con decisione allontanò la donna da sé e, volgendole le spalle, la rifiutò. Delusa e stupita, la donna lo blandì, lo scongiurò, tentò di convincerlo in ogni modo. Come sordo, il saggio si era chiuso la faccia fra le mani e recitava lo Shema. «Dimmi almeno», implorava la donna. Che cosa ti fa fuggire da me? Qual è il motivo di questo tuo rifiuto? Ma lui non rispondeva. La sua bocca sembrava sigillata. Hai trovato forse qualche imperfezione in me? Insisteva la donna. o nel mio palazzo, o nelle mie ancelle, qualcosa che ti abbia infastidito o turbato, mio signore? Per le sue preghiere, un angelo giunse allora a far da scudo al saggio, così come è detto. Perché egli darà incarico ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Pellegrino guardò Alfonso, dedicandole la benedizione. Ermelinda accese un'altra sigaretta. Allora il santuomo così parlò. Nessuna pecca, nessun difetto ho riscontrato in te. Perciò ti temo, perciò ti fuggo, perciò ti rifiuto. Perché perfetto è l'Eterno e Lui soltanto. Nel mondo di qua la perfezione è finzione e tentazione, sacrilegio e menzogna, immobilità, assenza, morte. Sconfitta dalla saggezza di lui, la donna scomparve in una nube di fuoco e il rabbi riprese il suo cammino verso la terra di Israele. E quel rifiuto della perfezione gli valse qualche grano in più di saggezza, così come è detto. Gli uomini dati al male non comprendono ciò che è giusto, ma quelli che cercano l'Eterno comprendono ogni cosa. La conclusione del racconto fu accolta da tutti con sollievo. La deferenza dovuta ad un patriarca bizzarro non cancellava il fastidio che tutti provavano per la memoria, per quanto ancora li teneva legati ad un passato di diversità, di sofferenza, di oppressione. Del resto anche Pellegrino, compiuto quello che riteneva comunque un proprio dovere, ora aveva voglia di parlare d'altro, delle sue fabbriche, dei suoi operai, delle forme di assistenza che andava progettando per loro. Con i sigari già accesi, gli uomini si spostarono nello studio, di nuovo accalorandosi in progetti e discussioni. Le difficoltà in cui il governo si dibatteva lasciavano filtrare un'aria nuova, le possibilità del futuro apparivano infinite. Settimio rimase seduto, immobile, con gli occhi vuoti. Le donne si ritirarono per rinfrescarsi e Alfonso restò al suo posto, sola di fronte all'assenza di Settimio. Fra di loro la lunga tavola di briciole, macchie di vino, stoviglie sporche. Riscuotendosi ai propri doveri di padrona di casa, chiamò le donne perché riordinassero. Il bambino le si mosse dentro, radice ancora invisibile che la garantiva al futuro. Anche Settimio si mosse. Si passò una mano sulla fronte per liberarla dal ricciolo ribelle che lo assomigliava ai fratelli e in un guizzo improvviso si alzò. Mentre lo guardava inoltrarsi nell'oscurità del corridoio, Alfonsa decise di sé che sarebbe stata perfetta, ma tutta dentro alla vita e inattaccabile al sospetto e alle critiche. Per questo, a partire da quel momento, cominciò ad imbruttire. La lunga treccia di Xenia è appuntata con precisione austera sul capo elegante, come una corona. La sciarpa di seta attorno al collo è con ogni probabilità consunta, ma non stazzonata. All'estremità opposta della fotografia, separato e unito a lei da un gruppo di compagni, Lev, come in un romanzo, ha la camicia del rivoluzionario e l'attitudine pensosa. Intorno a loro paesaggi superbi e desolati, le capanne di legno, le guardie, la neve. Le fotografie ritraggono gente che ha gusto e cultura e che anche nei disagi della deportazione non rinuncia a mostrarli, anzi, se ne fa un'arma. Rivoluzionari di professione, nella Russia zarista, nei primi del Novecento. Lo sguardo troppo acceso di lei, la freddezza da cospiratore di lui sono presagio certo di conclusioni estreme, la gloria o il patibolo. Forse si ritrovarono ad amarsi quasi per caso, dopo un pedinamento o un'istruttoria, quando, secondo una prassi consolidata, si fingevano coniugi per affittare un appartamento senza suscitare sospetti. Di certo la passione politica entrò nel loro amore come un collante potente fatto di rischio, paura, solidarietà. Il mondo intero contro di loro, lo zar, l'Ucraina, ma anche i compagni, quei social rivoluzionari che sulla lotta armata avevano ormai posizioni antagoniste, sotterfugi, nascondigli, fughe. I morti, il dolore per tutti i morti, i compagni saltati in aria su di una bomba, le compagne suicide in carcere o durante la deportazione, il tradimento sempre in agguato, diffidare degli amici più cari perché anche fra di loro, soprattutto fra di loro, può annidarsi il traditore. La spia che con un soffio può abbattere il castello di carte che tanta fatica è costato costruire. La morte precoce come destino certo, cercato. In una vita così, un figlio è forse soltanto un incidente. Un incidente che si può anche adorare, cui dare il proprio nome, di maschio o di femmina, come unica eredità da trasmettere, senza rischio di omonimie. Perché certo alla crescita di quel figlio, al suo diventare persona, non sarà dato di partecipare. Dell'organizzazione del parto e delle sue necessità si occupò Samuele, che accanto a sé non volle neanche l'ostetrica che sempre lo assisteva. Disinfettò lui stesso i ferri, controllò che le donne preparassero a dovere le stanze e il letto. La testiera a riccioli chiari non aveva sbarre cui aggrapparsi. Alfonso non gridò e non smaniò. Samuele le diceva via via cosa fare e lei era troppo presa per sprecare energie. Quando sentì lo strillo acuto, Alfonso pensò che parlare d'ora in poi le sarebbe stato meno necessario. C'era un'altra vita adesso a darle voce. Poi Samuele disse: «È maschio!» Il bimbo piangeva forte, coprendo ogni altro rumore. Che la madre tacesse parve naturale. Alfonso e il bambino furono lavati, accuditi, vezzeggiati, seppure senza smancerie. Samuele lo misurò, lo palpò, gli saggiò i riflessi, nudo e urlante lo passò alle donne perché lo vestissero. Dalinda lo strinse serrato nelle fasce, lo addobbò di nastri e merletti, lo depose vicino alla padrona sussurrando: «Ha tutte le membrucce in regola!» Su quella frase, che sarebbe poi entrata nel loro lessico familiare, Alfonso sfinita si addormentò. Accanto a lei, seduto in poltrona perché le gambe adesso gli tremavano, Samuele prese in mano una Bibbia dalla rilegatura consunta, con le pagine ingiallite e smangiate dagli anni e dall'uso. L'aprì, lesse in ebraico di sé e dei suoi. Suo padre il rabbino e suo nonno e il bisnonno prima di lui, sulle pagine bianche che precedevano il testo sacro, avevano annotato i fatti salienti della famiglia. Nascite, matrimoni, morti. In filigrana vi si potevano leggere i segreti, i matrimoni fra consanguini troppo stretti e gli scandali o gli incidenti ereditari che ne erano derivati. Per ogni evento, buono o cattivo che fosse, una benedizione, un salmo o un motto o un proverbio. Di padre in figlio, il filo delle generazioni li aveva uniti in una rete che le pastoie dei ghetti e delle persecuzioni avevano reso salda e riconoscibile. Ma Samuele, che poi Alfonso chiamava semplicemente Lello e così diceva tutto, l'affetto e la stima, il rispetto, la tolleranza per certe sue esuberanze, le serate misteriose per convenzione, la tranquillità che mai avrebbe superato certi limiti, era venuto al mondo con lo stato unitario. La genealogia a cui intendeva dar corpo era fatta non di ebrei, ma di uomini. Si alzò, ripose la Bibbia in uno scaffale alto, prese un quaderno di fogli bianchi e nuovi e in grafia oscura di medico scrisse semplicemente: «AD, 14 aprile 1900, mia moglie Alfonsa ha partorito un figlio, cui sarà dato nome Enrico». Nell'ottavo giorno dalla nascita, per motivi igienici, Lello circoncise suo figlio, ma senza alcuna cerimonia né pubblicità, e il fatto non fu registrato se non nella carne.